Siamo in missione per conto di Dio. Mattino di Luca Telese. C'è il popolo dell'alba che viaggia, parla e ascolta con calma prima che il giorno cominci a urlare. Sei tu che ci dai il titolo oggi, Serena, brava. Due motivi per cui vengo qui a Radio 24: uno per stare col mio vecchissimo amico Luca Telese, e poi perché Rachele della redazione di Radio 24 è l'unica che riesce a far diventare buono il caffè della macchinetta. Ha fiducia nel popolo italiano e noi nei Beatles. Beh, per far saltare il tappo bisogna togliere i sigilli. Kafka avrebbe posato la penna dicendo: mi batte l'agenzia delle entrate. Sempre sobrio, cioè sì, senza sì, una sì. Parola fuori posto. Alla fine sono semplicemente commenti dietro a un computer. Dietro a un computer sono tutti leoni. Abbiamo dei governanti che nessuno mai ha avuto la partita IVA, perché se avessero avuto la partita IVA con le pezze al culo allora fanno grandi cose. Devo dire stregatezza, precisione, chiarezza, idee chiare. Lei usa i condizionali con una grazia che molti politici italiani non hanno. Queste sono le cose che ogni tanto la radio deve raccontare, perché solo la radio trovi spazio per raccontare la follia dolce degli esseri umani. Ma allora non hai le orecchie. Mastrolin, okay. L'idraulico che tu lasci tranquillamente a casa con tua moglie, tanto si vede che pur essendo palestrato... Sì, sicuro una cippa, come si suol dire. Che Robin è il tipico toy boy e Batman un uomo maturo. Che lo tratta come un povero illuso velleitario prete di campagna. Batman e Robin sono veramente gay? Reach out and touch me. I grandi interrogativi che consegniamo alla storia senza neanche accorgercene. Buongiorno a Mario Giordano, qui al nostro fianco oggi per accompagnarci in questo viaggio. Buongiorno a tutti. E buongiorno a tutti voi che vi svegliate oggi con tante immagini a testa. L'immagine dell'ex criminale di guerra che si avvelena, beve la cicuta in diretta davanti a tutti. Però è un'immagine che va letta, va decrittata. Sembra un atto eroico, invece è l'estremo tentativo di fuga di un uomo che aveva bombardato un ponte della pace e sopravvissuto, pensate, per più di 400 anni. E ci sono tante cose da discutere. C'è l'Ilva che rischia di saltare per il ricorso di Emiliano. C'è il tema del bonus bebè, che è un po' la croce e la dannazione di questo paese. Per una volta sarò d'accordo con la P, con il partito di Alfano che dice tenetelo. Ma cominciamo subito. Mario, qual è la tua notizia del giorno? Che cosa ti ha colpito? Ma sicuramente, diciamo, dal punto di vista delle immagini, l'atto, la sfida del criminale di guerra che beve il veleno davanti al tribunale è sicuramente una delle immagini che resterà nella storia. Dal punto di vista L'hai trasmessa senza porti un problema, no? Perché una cronaca. Sì, l'ho trasmessa senza porti un problema perché non aveva nulla di... Ci ho aperto ieri sera al telegiornale perché non aveva nulla di... cioè è molto drammatica, però nulla di impressionante, però comunque è credo che sia una di quelle immagini che resta nella storia. Dal punto di vista economico, io credo invece delle nostre tasche, di quello che ci tocca più da vicino, credo che tutti i temi economici, da quello del giorno delle tasse, delle scadenze oggi delle tasse, quelli che accennavi della manovra con tutti i mini le bonus, non bonus, siano invece le cose che ci toccano più da vicino in questi giorni. Bene, allora entriamo subito insieme nella mitragliata partendo dal missile. Il sistema Vasong 15 è un missile balistico intercontinentale dotato di una testata nucleare di grandi dimensioni in grado di colpire tutto il territorio degli Stati Uniti. Lo dicono addirittura con entusiasmo gli annunciatori della TV del regime nordcoreano e la paura continua a crescere. È una situazione disperata ma non seria, ma adesso anche seria, Mario, no? Sì, anche se io continuo a pensare che ci sia una soluzione diplomatica e che in realtà questa grande partita di Kim sia in realtà la grande partita dei rapporti fra Stati Uniti e Cina, e cioè c'è qualcuno insomma che fa il furbo, perché continuo a pensare che se la Cina volesse, Kim sarebbe ridotto alla ragione rapidamente, quindi mi sembra che sia che stiano scherzando col fuoco le due maxi potenze. Stanno scherzando col fuoco, però appunto con una persona che abbiamo descritto in questi anni più volte, e quindi poi alla fine in queste situazioni ci può sempre scappare l'imprevisto. Ma ecco, io penso ancora, e mi sembra anche che i grandi commentatori internazionali vadano in questa direzione, che la partita sia soprattutto una partita di rapporti di forza fra Stati Uniti e Giappone. Mi sembra anche la reazione dell'economia e delle borse americane vada un po' in questa direzione. Vi avevamo detto che le parole di Scalfari e il suo preferirei Berlusconi a Di Maio avrebbero creato un lungo seguito di polemiche. Ormai siamo a 10 giorni, ma Marco Travaglio, ospite di Floris, continua a non capacitarsi che le abbia potute dire. Ma che cos'altro deve fare Berlusconi per risultare un po' peggio di Di Maio? Ma com'è possibile che veramente si pensi che un essere di quel genere possa essere meglio di un ragazzo che sarà inesperto, ma non ha mai rubato in vita sua, non ha mai corrotto nessuno, non ha mai conosciuto né mafiosi, né Licio Gelli, né Craxi, né Previti, né Dell'Utri? Ma è una cosa semplicemente assurda. E sentite come Scalfari risponde a Travaglio. Quello che Travaglio mi pare che non dica è che io ho messo come condizione all'eventuale alleanza tra il PD e Berlusconi che Berlusconi chiuda con Salvini. La politica non è un fatto morale, è un fatto di governabilità. Questa è la politica. Lezione sapienziale, un bel duello Travaglio Scalfari da scintille. Che sì, perché si scontra la visione, appunto, una visione etica e una visione di realpolitik, quindi si scontrano proprio due visioni del mondo. E Scalfari è stato fantastico l'altra sera da Flores nella sua replica. Sostanzialmente lui va e dice bisogna, la governabilità passa davanti a tutte queste animali. Certo che è impressionante pensare che vada il fondatore di quel giornale che su queste ragioni morali ha fatto anni di battaglie, 10 punti, ce li ricordiamo tutti, l'insistenza, 10 punti, quindi diciamo è uno stravolgimento totale della linea del suo giornale, che però lui ha sempre rivendicato. Gianpaolo Pansa l'ha raccontato, no? Più volte Scalfari diceva i giornali devono poter essere questo, devono poter cambiare anche il giorno dopo. In nome della realpolitik, quindi in nome dell'accordo Renzi-Berlusconi, ha detto in modo esplicito Scalfari, della sua libertà che gli consente la sua età, ma bisogna andare in quella direzione lì, perché quella è la realpolitik, e quindi passa soprattutto, passa anche sopra la storia del giornale che lui ha fondato. È una cosa, è veramente stato una cosa, è uno scontro molto bello, molto scontro bello. Scontro fra titani, hai ragione. Andrea Stroppa, hanno scritto chilometri di inchiostro e di colonne su di lui, è l'uomo, il ragazzo che ha ispirato l'articolo del New York Times sulle fake news. Alla fine è un ragazzo un po' smanettone e qualcuno ha scritto anche con degli accenti un po' coatti. Quello che viene fatto è che i dati vengono alterati, che le storie vengono talvolta inventate. Tutto questo per fare in modo che le storie verosimili siano a favore di un certo tipo di pensiero. Intervistato da Mentana. E Salvini attacca Renzi proprio sulle fake news. Segretario del principale partito di governo passi le sue giornate spulciando su Facebook, decidendo cosa gli piace e cosa non gli piace, è da ricovero coatto. È da TSO, anche perché io le fake news me le becco ai telegiornali pubblici e privati tutti i giorni e tutte le sere. Mio figlio ha 14 anni e sta tanto tempo in rete, però non fa il segretario di partito. Questa è buona. Ma insomma, Mario, anche come direttore, tutto questo dibattito sulle fake news, che poi è la vecchia bufala, dove porta? Ma porta semplicemente a dare ancora una volta l'idea che secondo me Renzi ha perso il contatto con la realtà, perché fare delle fake news il tema di dibattito, fra l'altro da Renzi, che della fake news è una fake news personalizzata, cioè è l'impersonificazione della fake news. Non te lo dovevo chiedere, sei proprio ad alzo zero. Senti Gene Gnocchi. Non possiamo non iniziare con l'argomento Leopolda. Sono stati due i punti fondamentali emersi: la lotta alle fake news, per cui in pratica Renzi farà la lotta a quello che dice Renzi, questa è una cosa, e poi solito bonus di 80 euro, 80 euro alle famiglie con i figli. Famiglie con i figli, attenzione! Se sentite citofonare, non sono i testimoni di Geova, è tornato il bomba! Vedi, è più perfido di te, gnocchi. Sì, è più perfido di me, però diciamo, io credo che questo sia il primo pensiero che è venuto a tutti gli italiani quando sentono Renzi che parla di fake news. Adesso, cioè, facciamo l'elenco delle fake news di Renzi dal momento in cui... No, per carità. Ma oltretutto, diciamo, in questo momento le palle ci sono sempre state, è ovvio, bisogna stare attenti perché oggi attraverso la capacità di diffondere notizie attraverso i social network, come abbiamo detto, ma è una banalità, c'è la possibilità di circolazione di notizie false, forse che è aumentata rispetto al passato, ma io credo che il problema degli italiani oggi non sia quello delle balle che sono esistite, sono sempre esistite, sia piuttosto quello di qualche fatto reale. E purtroppo nel nostro mondo politico si occupa troppo di balle, dicendole e inseguendole, e poco di fatti reali che invece, ahimè, continuano a succedere troppo poco, compreso quello che c'è in questa manovra. Momento quasi drammatico nell'intervista della Gruber a D'Alema, condotta insieme a Nicola Porro, in cui D'Alema proprio perde la grazia di Dio quando gli citano le critiche del suo ex discepolo Orfini nei suoi confronti. Lei mi permetterà di dire che, come lo conosco da piccolo Orfini non si può permettere di dire che io faccio ridere. E questo modo di rapportarsi a quelli che non la pensano come te ha il tratto dell'arroganza tipica di Renzi, peraltro, e del gruppetto di quelli che lo circondano, ed è una delle ragioni, non l'ultima, per cui non stanno simpatici alla grande maggioranza degli italiani. Il discepolo è il maestro, eh? Lei mi permetterà di dire che non può permettersi. Anche qua, sì, no, con tutto il rispetto per D'Alema che dà lezioni di arroganza agli altri, anche questo è abbastanza simpatico. Cioè, senti però cosa ha detto sull'IMU, qui è interessante. Una famiglia in cui entrano 3.500, 4.000 euro, eccetera, è in grado di pagare la tassa sulla casa. 4.000 euro lordi. Anche perché... Lordi o netti? In una famiglia in cui entrano. Se entrano vuol dire che sono netti, no? In italiano, okay. È chiaro. No. Hai visto come ha bacchettato la Gruber? Entrano, sì, netti, quindi... Ha bacchettato. Il pensiero alla tassa sulla casa però un po' mi preoccupa, se devo essere sincero. Tu pensi che sia sbagliato reintrodurre parzialmente l'IMU in base al reddito? Ma più che penso sia sbagliato, penso che la casa di per sé debba essere un bene primario, debba essere al di fuori della come casa, ora, quindi. Come adesso, sì. Per tutti, dici? Io penso di sì, io penso che la casa sia un bene che debba restare al di fuori della tassazione. Allora, il fatto del giorno dal punto di vista dell'immagine sono questi ragazzi con il bomber nero, la testa rasata, che fanno irruzione nella sede di un'associazione a Como, interrompono la riunione che c'era e leggono un proclama. Sentite. Soloni dell'immigrazionismo ad ogni costo, incapaci di vedere che la loro logica malata sacrifica i popoli di tutto il mondo e tutti coloro che questi popoli mirano a sostituirli con non popoli. Per tutti voi, figli di una patria che non amate più, siamo qui a ricordarvi che proprio il popolo si ama e non si distrugge. Fermiamo l'invasione. Ora potete riprendere a discutere di come rovinare la nostra patria. Potete riprendere a discutere di come rovinare la patria. Qui ti voglio, che pensi di questo gesto? Perché apparentemente non c'è stata violenza fisica, però violentissimo dal punto di vista della prevaricazione. Sì, io penso che sia una cretinata, penso che sia una cosa folle, penso che non l'irruzione sia una cosa senza senso di questo genere, oltretutto in un centro profughi, e in questo modo sia una pagliacciata pericolosa che dà segnali sbagliati, quindi penso che non insomma tutto il peggio possibile. Detto questo, penso anche che, come sai bene, sono convinto da anni e denuncio e se mi permetti anche stamattina racconto sulla verità una storia di accoglienza che in realtà è sfruttamento anche degli immigrati, di persone che si arricchiscono, e penso che le balle, appunto le fake news, se vogliamo usare un linguaggio, che ci hanno raccontato sull'accoglienza per intascare soldi e denari ai danni degli immigrati, anche spesso cui sono date condizioni di vita indegne, siano spaventose. Questo dei neofascisti, dei nazistine e di Como è il modo peggiore per combatterlo, ma combattere il business dell'immigrazione, combattere quello che sta avvenendo sull'immigrazione, invece secondo me è una non necessariamente però quella riunione di quell'associazione di Como, no, cioè, detto, tu dici combattere chi si appropria, non chiunque si occupa di immigrazione. Per questo ti dico che fare eruzione nel centro popolo in questo modo non è proprio è il modo sbagliato, anzi forse alla fine è il modo per favorire tutti quelli che poi alla fine si per screditare invece quello che secondo me bisogna fare, che è la denuncia di un meccanismo di quello che sta avvenendo in Italia, che è sbagliato. Quel modo di combatterlo è il modo più sbagliato che ci sia. Distinguere sempre, generalizzare mai. Strade, e torniamo con Mario Giordano. Facciamo un avvertimento sindacale: è immorale alzarsi a quest'ora. Mattino. I già svegli. Buongiorno, sono Dino da Torino, sono in viaggio dalle 5 di stamattina direzione La Spezia. A proposito di fake news, vale la pena ricordare quelle raccontate da Berlusconi a proposito della nipote di Mubarak e quella di Matteo Renzi che parla di acquistare le azioni di Alitalia in un momento in cui bisogna allacciare le cinture di sicurezza. Viva l'Italia! Scusi, non si stufi di me, se fossero i giovani a scandalizzarsi e interessarsi un po' più di politica. Perché? Perché guardi, io me la prendo perché ho i nipoti, però largo i giovani, no? Buon mattino, lei, signor Terese. Ti faccio tanti auguri, benvenuto fra di noi, tu sei un giornalista simpatico e mi piace. E allora io ti faccio il saluto, ti faccio i miei complimenti dal sud. Certo che è l'insonnia, ho due figli cinquantenni, devo dargli io a mangiare, una pensionata di 88 anni. Luca, sono demoralizzata, non ne possiamo più. Ciao Luca, ti voglio bene. No, non essere demoralizzata, una 88enne che mantiene due figli cinquantenni, capisco che possa sentire un peso sulla sua testa, ma in questa mattina, in tutte le mattine, la speranza e anche la forza di chi non molla sono ciò che ci tiene in piedi, che ci tiene svegli. Mario, un commento per te. Ulisse Giordano, finalmente un commentatore di buonsenso. Hai capito? I tuoi fan già svegli. Grazie anche all'ascoltatore che ci mandava i complimenti dal sud. Ulisse è mio fratello in realtà. Adesso ti faccio tremare perché è veramente bello. Mister Friuli ha parlato. Mister Friuli Nero. Non mi sono rimasto male perché i critici ti fanno andare avanti. Mi sento friulano. L'integrazione fa bene della società per far mostrare anche gli italiani che le persone di colore hanno un'altra mentalità. Allora, che cosa pensi di queste polemiche? Qui ti voglio perché è difficile. Mister Friuli Nero, può esserci o no? Ma guarda, l'abbiamo avuto ieri sera in collegamento in TV dalla vostra parte. Mi sento friulano. Dal campo di basket, è un ragazzo simpatico, bravo. Io trovo che non se devi eleggere Mister Friuli non può essere lui, se deve essere rappresentante del Friuli non può essere uno che è arrivato da 5 anni e che non rappresenta la terra. Dopodiché credo che sia un'operazione di marketing straordinaria. È quello che ho detto ieri, un genio, perché l'organizzatore dell'evento è anche il suo manager. Quindi sì, è il suo manager. È stata una grandissima operazione di marketing, siamo tutti ovviamente, ci siamo andati dietro, tu adesso, io ieri. Abboccati con tutte le scarpe. È una cosa bella, una cosa che fa discutere, che pone un problema vero, quindi è stata una grandissima operazione. Io auguro a questo ragazzo tutto il successo che può avere, perché ripeto, un ragazzo quindi avrà tutto successo, ma se io devo rappresentare Mister Friuli, se faccio una gara per Mister Friuli, faccio uno che rappresenta la terra Friuli. Ma che deve essere biondo e con gli occhi azzurri? Non deve essere necessariamente, ma magari uno che conosce il friulano, uno che conosce le tradizioni da terra, uno che conosce, se faccio Mister Friuli. Ma no, dai, non è che Miss Italia conosce la Divina Commedia, dai, no. Miss Italia che cosa deve essere? Quella che rappresenta la bellezza italiana nel mondo? Mettiamoci d'accordo. Abbiamo avuto delle Miss Italia di colore. E certo che l'abbiamo avuto, a parte che erano italiane, è diverso. È diverso da rappresentare, ma se tu devi fare un concorso, io posso rappresentare Mister Senegal, al di là delle qualità estetiche. Mario Giordano Mister Senegal. Posso diventare Mister Senegal, non so, povero Senegal. Posso diventare Mister Senegal, no, non so neanche cosa sia. Ma il problema è che non facciamo figli, e qui ti voglio, perché c'è un documento drammatico, Micaela Biancofiori. Non si fa più l'amore, la Biancofiore lancia l'allarme. Tale, il problema perché, non è solo il lavoro, perché, secondo me, ma la qualità del lavoro. Scusa, anche, se ti interrompo. Poi c'è il tema della qualità del lavoro. Stavo per chiedere ad Orsini. Secondo me la speranza. Aspetti, Ricci, aspetti è un che c'è un dato. Fa cioè, qua non facciamo più manco l'amore, la verità è quella. Lasciami dire un dato. E c'è anche un'intervista a Caporale oggi sul Fatto. È bello che la Biancofiore ponga questo tema. Non si fa più l'amore, Mario Giordano, in Italia. Sì, adesso questo non lo so, diciamo, non ho fatto un'indagine su così approfondita su questo tema sotto le lenzuole, quindi non te lo so dire. Siccome in genere cerco di parlare delle cose che so, questo onestamente non lo so quanto. Però è vero che c'è un fatto culturale, ci sono due fatti sul tema dei figli, un fatto economico che sicuramente c'è, perché avere figli oggi costa, insomma l'abbiamo raccontato, l'abbiamo detto tante volte in queste ore, è un problema economico, ma è anche un problema culturale, anche un problema di speranza, di approccio alla vita, e quindi questo comporta anche l'atteggiamento nei confronti del posto, che non sempre è solo una questione economica il fatto di non fare figli, è anche un fatto, ripeto, culturale, e nel fatto culturale ci sta anche il fatto che forse c'è meno propensione all'amore, al progetto di vita insieme, al mettere al mondo un figlio, e sono due cose che si tengono insieme, però non dimentichiamo l'aspetto economico, perché oggi avere un figlio è complicato, averne più di uno è complicato, e gli aiuti che lo Stato dà, che la società dà alle famiglie, sono spesso irrisori, al di là delle promesse e delle parole. E a proposito di contaminazioni multietniche, Gattuso dice che si sente più lombar che calabrese. Sono 20 anni che vivo a Gallarate, ho fatto 12 anni in Calabria. Sicuramente la faccia è rimasta, la mentalità, il DNA, le usanze, le tradizioni sono rimaste, ma se andiamo a vedere, io ho trascorso più anni a Gallarate, sono più lombardo che calabrese, andiamo a vedere. Allora vedi che c'è la contaminazione, Mario? Ma io non metto in dubbio che ci sia la contaminazione. Gattuso gallaratese, è stupendo. Detto questo, se dovessi scegliere il simbolo di Milano, sceglierei il panettone e non Gattuso, ecco, diciamo. Era anche testimonial della Regione Calabria. Bene, grazie a Mario Giordano, ci ha accompagnato in questa mattina, tornerà presto. Qual è l'ultimo pensiero che vuoi dare ai Giasvegli? Voglio dare i Giasvegli domani mattina di dormire mezz'ora in più, perché ne ho sentito qualcuno un po' provato questa mattina. Va bene, Giornale Radio, ci sentiamo dopo, ciao.